Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Oggi al quadrifoglio parliamo di baccalà, un alimento tradizionale per la nostra regione, ma che viene consumato sempre di meno. Per rilanciarlo, proprio questa settimana inizia il terzo Festival Triveneto del Baccalà Verso Expo 2015, una manifestazione che vede in gara ben 27 ristoranti veneti, trentini e friulani. Ad organizzarla è un comitato di cui fanno parte le confraternite del baccalà alla Vicentina, del mantecato veneziano, del baccalà alla Cappuccina padovana e del baccalà dei frati di Rovereto. Un evento, insomma, che supera i campanili che sappiamo essere sempre vivi anche nel caso del cibo, ma che in questo caso hanno poco valore. I ristoratori, infatti, che partecipano al concorso dovranno presentare solo ricette innovative, 3 per ciascuno, che saranno giudicate su scala provinciale da un'apposita giuria, ma anche dai commensali durante le cene organizzate per tutto il mese di ottobre e di novembre nei vari locali. Il 5 dicembre, infine, verrà premiata la ricetta migliore, che permetterà ai cuochi che l'hanno realizzata di godere di un viaggio premio alle isole Lofoten in Norvegia. Ma perché proprio alle isole Lofoten? Lo chiediamo ad Ermanno Tagliapietra, che è forse il principale importatore italiano di stoccafisso e sostenitore anche di questa manifestazione e anche esperto di baccalà e appunto di stoccafisso. Buonasera, buonasera a tutti. Perché porteremo questi ristoratori vincitori alle isole Lofoten? Ecco, è un viaggio un po' diciamo alle origini, ecco, di un prodotto. Noi parliamo di baccalà, ma quando noi veneti diciamo baccalà, intendiamo sempre il baccalà secco, lo stoccafisso, che viene prodotto proprio in Norvegia. La Norvegia è esattamente alle Lofoten. Siamo oltre il circolo polare artico, una zona in pratica dove il merluzzo ritorna dove è nato a riprodursi. E ogni anno avviene una caccia, chiamiamola così, una pesca che ha del miracoloso, anche se diciamo ultimamente è una pesca molto regolamentata, non viene lasciata al caso. Allora i vincitori verranno proprio riportati a vedere come viene pescato, come viene lavorato, le condizioni climatiche che fa sì che la natura faccia è un prodotto eccezionale sotto tutti i punti di vista. Ecco, il baccalà, appunto il merluzzo poi in realtà, sì. Intanto è solo pescato in mare, quindi non di allevamento, e no, solo no. Mi pare in un paio di mesi all'anno, esatto, tra marzo e aprile. Appunto il merluzzo è nel mar di Barents, lì sta mangiando, sta pascolando, a un certo momento sente il momento di riprodursi e inizia questo viaggio che ha dell'avventuroso quasi. Praticamente un viaggio di qualche migliaio di chilometri in mare aperto, siamo vicino al Polo Nord, per cui strada facendo il pesce mangia, si ingrassa e arriva maturo, pronto per depositare le uova che saranno fecondate dai maschi. E questo è un viaggio in cui il pesce subisce delle metamorfosi molto molto marcate. Quando inizia il viaggio le uova, ad esempio, del pesce sono piccoline all'interno del ventre, del pesce stesso. Quando arriva, finisce quasi il viaggio, le uova, quasi 2 milioni di uova ogni individuo, prendono gran parte del ventre all'interno del pesce. È una cosa bellissima da vedere perché ci sono esemplari che vengono pescati da certo. Addirittura di 15, 20, 30 kg di grandezza, di peso, per cui pesci veramente che hanno fatto parecchi viaggi di andata e ritorno durante la loro vita. Senta, il baccalà da noi è arrivato secoli fa, ci può raccontare come mai, come un veneziano, un nobile veneziano Venezia sappiamo tutti che era una città marinara, per cui lei aveva grossi, diciamo così, aveva i fondaci in tutto il Mediterraneo e anche si portava fuori delle colonne d'Ercole, le famose colonne d'Ercole che erano certo. Il stretto di Gibilterra. Sì. sarà uno di questi, il Querini, e a un certo momento intraprende questo viaggio che era abituale ai primi di marzo, così diciamo dai primi di marzo queste galee uscivano da Venezia, cui venti favorevoli intraprendevano questo viaggio che li portava addirittura fino all'Inghilterra e fino a commercializzare con la Germania quella volta lì. Proprio uno di questi viaggi avviene una rottura del timone e la nave resta in balia delle onde. La fine di questo viaggio è proprio su un isolotto delle Lofoten, dove ormai la nave era stata abbandonata, si salva solo la scialuppa con una parte dei marinai, e lì arrivano su questo isolotto che tra l'altro io ho visitato, isolotto che d'estate è un paradiso, ma i primi di gennaio, come nel periodo in cui è naufragato il Querini, non deve essere stato molto, molto ospitale. Certo. Siamo cui, nel 1432, vero? Esatto, siamo veramente diciamo in un periodo già molto difficile, e soprattutto loro sono naufragati su un isolotto disabitato. Era praticamente un isolotto sfruttato, dove quelli di Rost, praticamente gli abitanti dell'isola vicina, invece andavano a portare le greggi a pascolare durante il periodo estivo, e lì vengono accolti, ospitati, rifocillati da questi isolani che a un certo punto, dopo due o tre mesi dove i superstiti hanno tempo di recuperare le forze, e gli danno dello stoccafisso. Loro però sono capitati in un periodo di pesca. Il Querini racconta proprio la pesca che avviene. Si meraviglia di un pesce che viene attaccato ancora fuori all'aperto a essiccare. Certo. Come fosse uva, come fosse, diciamo così, la biancheria stesa dei panni a Venezia. E questo è un fatto che lui riporta in quel diario, e per tornare indietro gli danno un po' di stoccafisso. Questo stoccafisso, che era moneta, in quel periodo lì era una moneta di scambio come tante altre merce, gli permette di ritornare a Venezia. Esatto. Ecco, ci fermiamo per qualche minuto e a tra poco. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. Why? abbiamo in linea con Ermanno Tagliapietra, stiamo parlando oggi di baccalà, abbiamo visto come è arrivato a Venezia grazie al naufragio del nobile Pietro Querini. Dicevamo che il baccalà veneto in realtà è lo stoccafisso, si crea un po' questa confusione, come mai questo? Ma io direi che dipende proprio dal fatto che i veneziani hanno conosciuto durante i loro viaggi, hanno conosciuto il baccalao nei porti spagnoli e naturalmente portoghesi, e naturalmente quando si sono rincontrati con il pesce loro hanno legato il nome con quello che loro avevano conosciuto e mangiato con le loro navi nei vari porti, e che naturalmente era il baccalao, che in Spagna è tuttora uno dei piatti più famosi. Ma la differenza tra baccalà e stoccafisso qual è allora? Allora, la differenza è che il baccalà sarebbe il salato. Nella prima parte, a gennaio e febbraio, fra troppo freddo per appenderlo, viene salato. Poi da fine febbraio fino ai primi giorni di aprile viene appeso e diventa stoccafisso. E noi veneti siamo molto pratici, diciamo, specialmente quando abbiamo voglia anche di mangiarlo. Ad esempio, noi facciamo una battitura dello stoccafisso che non viene fatta in nessuna altra parte d'Italia, per accelerare quel reidratazione, sia quel riprendersi l'acqua che gli è stata tolta alle lofote. Senta, abbiamo detto che è un alimento tra i più naturali che esistono, perché è pesce pescato direttamente nell'oceano, senza particolari trattamenti, viene seccato. Dicevamo anche però che il suo consumo è un po' in calo anche nelle nostre regioni, forse perché la gente non sa più come si fa. Oggi siamo abituati a trovare cibi pronti di veloce cottura. Esatto, voi vi state ponendo questo proprio problema. È quello che lo sta un po' lentamente portando un po' all'eclissi questo ottimo pesce, questo ottimo prodotto. Bisogna tener conto che è pescato in un mare incontaminato, la costa norvegese ha, la Norvegia ha 4 milioni di abitanti, quindi praticamente non ha industrie, grosse industrie, quindi una Norvegia è una nazione che si affaccia e ha un mare pulito dove viene pescato il pesce. È ricco di omega 3, perché è ricco di omega 3, di vitamina A, di vitamina D, quindi un prodotto alimentare che senz'altro dovrebbe rientrare nelle nostre diete a tutti i titoli per poterlo fare, solamente che cos'ha? Specialmente per quanto riguarda lo stoccafisso, ma anche il salato, ha un periodo di preparazione piuttosto lungo, ossia ci vogliono i 3 giorni. Anche se noi nel Veneto lo abbiamo accelerato con la battitura, ossia sfibrando il pesce in maniera che possa più rapidamente recuperare l'acqua, e qui i tempi là, se uno decide oggi di mangiare baccalà, deve aspettare 3 giorni. Sì. E poi ci sono le ricette tradizionali, che salvo perché per quanto riguarda il mantecato, che è solo pesce e olio, niente altro, per le altre ricette sono un po' laboriosi con i tempi che corrono, dove le famiglie si ritrovano la sera tardi dopo aver recuperato magari i bambini o dai nonni o dagli zii o a scuola, si deve preparare la cena o in maniera abbastanza veloce. Questo comincia a diventare uno tra i primi ostacoli della diffusione e del consumo di questo pesce. Noi stiamo cercando di fare qualcosa anche per questo. Bene, ringraziamo allora Ermanno Tagliapietra per questo così tuffo nei mari del nord, e ricordiamo che appunto sta per partire il Festival Triveneto del Baccalà, e per tutto il mese di ottobre e novembre chi vorrà sul sito internet www.festivaldelbaccalà.it potrà trovare un elenco di ristoranti dove sarà possibile assaggiare queste ricette nuove, non tradizionali ma innovative, che poi saranno giudicate da una apposita giuria. Grazie signor Tagliapietra. Grazie a voi. Arrivederci, un saluto a tutti. Passiamo ora ad alcune notizie. Nonostante la crisi economica, risulta in deciso aumento il consumo dei prodotti biologici. Lo rende noto uno studio della Coldiretti in occasione della Biodomenica, festeggiata insieme a Legambiente e AIAB in tutta Italia. L'acquisto di cibi biologici ha segnato un netto più 6,1% nel primo semestre del 2012, in netta controtendenza con il calo dei consumi alimentari nello stesso periodo. anche il fatturato dei prodotti biologici in 10 anni è triplicato, passando da meno di 1 miliardo di euro del 2000 agli oltre 3 miliardi attuali. L'Italia è leader europea nel numero di imprese biologiche, cresciute dell'1,3% in un anno, attestandosi oggi a oltre 48.000 unità e con più di 1.096.000 ettari coltivati. Dal 12 al 14 ottobre la piazza centrale di Mel ospita la manifestazione Mele a Mel, organizzata per promuovere i prodotti tipici locali e in primis la mela, evidenziando tecniche produttive e di trasformazione. In mostra sono oltre 100 varietà di mela, con degustazione anche di sidro e del frutto applicato a diversi piatti tipici. In contemporanea si terrà anche una mostra dell'artigianato lungo tutto il centro storico del paese, tra cortili e palazzi cinquecenteschi. Per tutto il mese di ottobre, negli oltre 500 agriturismi di Coldiretti Veneto, sarà possibile scegliere un menù a prezzo fisso per sostenere l'iniziativa benefica promossa dalla Fondazione Banca degli Occhi a favore della ricerca contro le malattie oculari. Gli agricoltori hanno scelto di servire nei loro locali 4 portate a base di tipicità locali che aiutano la vista, dalle carote ai mirtilli, dal kiwi al melograno, dal latte alle giuggiole. Ogni prodotto sarà ambasciatore di un territorio e ingrediente principe della fantasia degli chef. Domenica 14 ottobre, a Coldiretti di Vicenza organizza invece la 6ª edizione di Pedalando sulle terre del Brenta, un percorso di circa 3 ore lungo viottoli di campagna e gli argini del grande fiume, con soste presso aziende agricole e siti di grande interesse, come la Beverara di San Benedetto o la Risorgiva del Castellaro. Iscrizioni con partenza libera e arrivo al Parco dell'Amicizia di Tezze sul Brenta. Torna anche quest'anno Fatterie Didattiche Aperte, l'iniziativa organizzata dalla Regione Veneto in collaborazione con le associazioni professionali e agrituristiche regionali. Un evento dedicato alla scoperta e alla riscoperta del mondo dell'agricoltura che sabato 13 e domenica 14 ottobre coinvolgerà ben 150 fattorie dislocate sull'intero territorio regionale. Tante e diversificate sono le occasioni per avvicinarsi al mondo rurale e ai suoi segreti, tra laboratori manuali, percorsi sensoriali, escursioni, giochi ecologici all'aria aperta. La visita è gratuita, ma è necessaria la prenotazione direttamente presso le fattorie prescelte. Per oggi termina qui la trasmissione del Quadrifoglio, ci risentiamo la prossima settimana. Vi ricordiamo che potete riascoltarci scaricando la trasmissione in podcast sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato il Quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.